Buongiorno, mi dica. Ciao stronzo, mi passi un tecnico? Pronto? Ciao stronzo, mi passi un tecnico? Scusa, ma mi puoi ripetere? Stronzo. Certo, però così non parla proprio nessuno. Sì, buongiorno, sono Maurizio, come posso aiutarla? Ciao fogna di merda, mi passi un tecnico? Scusa? Fogna di merda, mi passi un tecnico? Vorrei come posso aiutarla? Hola bastardo, mi passi un tecnico? Come, scusi? Hola bastardo, mi passi un tecnico? Si identifichi per favore, chi è? Buona, sono Paolo, come posso aiutarla? Uè, ciao Paolo, allora mi titilli i capezzoli? Pronto? Ma vaffanculo, frocio. Buongiorno, sono Valentina, come posso aiutarla? Sì, ciao, ascolta, io ho contratto l'Ebola, posso abbonarmi a Tinit? Contratto l'Ebola? Sì, l'Ebola. Ma Un'utenza telefonica? vaffanculo. Tiniti, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Eh sì, buongiorno, volevo un'informazione. Io non riesco a navigare internet, nonostante mi sia ficcato il cavo della connessione nel culo. Pronto? Non è chiaro, può ripetere? Cavo, connessione, culo. Uno? Buongiorno, sono Pamela, come posso aiutarla? Buongiorno, Ciao bella, me lo prendi? sono Barbara, posso aiutarla? Sì, ciao, ho comprato un lavabo. Sì? Un lavabo. Buongiorno, sono Andrea, come posso aiutarla? Sì, ciao, ti puzzano i piedi. Ti puzzano i piedi, coglione. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, buongiorno, senta, volevo cercare di connettermi a internet con la DSL, però ho lo scroto incastrato nella tapparella e non riesco a muovermi. Ho No, non ho capito, scusi. lo scroto incastrato nella tapparella. Non ho sentito. Cosa? Devo liberarmi, scusi? Buongiorno, sono Pasquale, come posso aiutarla? Eh sì, ciao bello, un elefante morto nel vigneto. Sì, e poi? No, no. Buongiorno, sono Paola, come posso aiutarla? Eh sì, buongiorno, volevo un'informazione. Io ho fatto la spesa online e mi hanno ficcato lo scontrino nel culo, è normale? Se lo prenda, si rilassa. Niente, buongiorno, sono Claudio. Pronto? Eh sì, buongiorno, volevo un'informazione sulla DSL. Ah no, no, no, mi scusi, mi perdo la gara di termiti su Sky. Mi spiace, niente, salve, salve. Buongiorno, sono Maurizio. Eh sì, buongiorno, volevo un'informazione. Senta, io stavo gonfiando un canotto e poi mi è esploso il marciapiede. Mi puoi aiutare? No. Stronzo. Buongiorno, sono Adriana, come posso aiutarla? Eh sì, buongiorno, volevo un'informazione. Nell'abbonamento Tinit 1200 è compresa anche una friggitrice? Ma sto scherzando? Stronza. Buongiorno, sono Barbara. Pronto, sì, volevo un'informazione. Chiamo da parte di Batman perché c'è Robin che sta sventrando il maggiordomo con una pila di cataste. Non potrebbe aiutarmi a stroncarli? No. Stronza. Buongiorno, sono Natasha, come posso aiutarla? Natascia la bagascia. Buongiorno, sono Alessandra, come posso aiutarla? Pronto? Sì, pronto, mi dica. Sì, buongiorno, sono il Papa. Sì, mi dica, qual è il suo inconveniente? Niente, sono esploso. Così non riesco a sentirla. Buongiorno, sono Barbara. Pronto? Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Stavo provando a installare il modem USB sul mio computer, però mi ha dato un errore di overflowing sulla ciminiera. Allora, vada su a controllare. Stronza. Buongiorno, Eh sì, buongiorno, volevo un'informazione. Senti, io ho provato a installare il modem DSL e poi l'ho collegato alla linea. Solo che quando tento di connettermi mi esplode lo scaldabagno. Mi esplode lo scaldabagno. Pronto? Mi sente? Scusi, chi è? Io sono Silvio della Tinit. Silvio. Sì, senta, volevo un'informazione. Stavo digitando prima www.tin.it sul browser Internet Explorer, però non riesco a friggere i maccheroni. Come mai? Pronto? Pronto, mi sente? sporco del cazzo? Buongiorno, sono Mara, come posso aiutarla? Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Io ho acquistato un paio di mesi fa un diapason, non è che se lo può ficcare nel culo? No. Pronto? Inizio, buongiorno, sono Nicola. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Senta, io ho fatto un abbonamento 256 con voi della TNIT. Soltanto che io non ho un computer e ho tentato di collegare appunto il modem ADSL al divano, solo che non si connette. Non si connette il divano? No. Il cavo d'alimentazione? Il cavo d'alimentazione me lo sono ficcato nel culo, giusto? Beh, ti è piaciuto? No. No. Arrivederci, buongiorno. Ciao, bello, ciao. Buongiorno, sono Paola, come posso aiutarla? Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Stavo parlando poco fa con un suo collega, poi è caduta la linea. Mi ha detto che appunto per collegare il divano alla DSL devo mettere il filo dell'alimentazione, ma dove va inserito? Stronza? Buongiorno, sono Claudia, posso aiutarla? Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Oh, un attimo, mi è caduta la penna, porco Dio. Pronto, sì, volevo un'informazione. Sì. Riguardo i costi della DSL 256 di TNIT. Sì. Porco Dio, sta sedia. Sì, e volevo sapere appunto come sono i costi, così. Dipende da quale tipologia di abbonamento desidera attivare. Porco Dio, una DSL. Senta, puoi ricomporre il numero? Perché questo... Stronza! Risulta... Buongiorno, sono Manuela, come posso aiutarla? Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Ho una moffetta nel cassetto che urla porco Dio, Gesù reietto. Come devo fare? Scusa, cosa c'ha? Una moffetta nel cassetto che urla porco Dio, Gesù reietto. Posso dire come posso esserle utile? Sì, ciao bella, ho un pastore tibetano incastrato sotto la frizione. Poi? No, poi basta. Solo questo? Sì. Ciao bella. Mi lasci di già. Ciao. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Uè pirla, spompinami. Cioè, buongiorno, sono Pamela, come posso aiutarla? Minchia, voi se non mi riallineate sto modem vi ammazzo tutti. Stronza. Buongiorno, sono Irene, come posso esserle utile? Ancora. Buongiorno, sono Pietro, come posso aiutarla? Passami Irene. Come, mi scusi? Passami Irene. E chi sarebbe? Porco Dio, una del call center. Ma è lei chi è, mi scusi? Ma vaffanculo, va. Io come posso aiutarla? Ho un petti rosso nel culo. Se vieni qui te lo tolgo io. Buongiorno, sono Maurizio. Ciao Maurizio, passami Irene, che lei è simpatica, tu mi stai sul cazzo. Pronto? Pronto? Passami Irene, che tu mi stai sul cazzo, coglione, dai, vai, veloce. Cazzo ridi, coglione. Te la ghigni, eh? Te la ghigneresti meno, però, con una tastiera su per il culo, vero? Porco Dio, t'ammazzo a te, hai tutti i tecnici finché non mi allineate sto porco Dio di modem. Li ammazzo tutti. Porco Dio, noleggio un transatlantico e ve lo lancio in testa, Dio cane. Addirittura. Vabbè. Dai, come funziona la cosa qua? Quanto ci mettono a sistemare? Non lo so. Non lo so. A chi cazzo chiedo? Al Papa, Dio cane, madonna, puttana? Porco Dio affogato nella merda di Dio cane? Che abbonamento ha? Madonna cerebrolesa impasticata ninfomane. Che abbonamento ha? Una DSL 1200, porco Dio, ancora che me lo chiedete. Dammi la tua user. Dammi, ma che cazzo di confidenza ti pigli, minchia, io ti ammazzo. Dai. La user e vediamo un attimo.